Continuiamo i nostri approfondimenti relativi ai festival con un evento che non si tiene propriamente a Bologna, ma molto vicino in realtà. Stiamo parlando di Arti Vive, che si terrà a luglio, quindi tra pochissimo qua vicino, a Soliera, ecco, e anche a Modena. Ci sono in questo caso due location che verranno utilizzate, ma che ci faremo raccontare meglio dall'organizzatore di Arti Vive, che è Matteo Gozzi, che è qua con noi. Ciao Matteo. Ciao Erika. Come va? Bene, intanto vi ringrazio di questo spazio che ci date. Come sta procedendo l'organizzazione? Perché insomma manca non troppissimo, ecco, all'inizio di questa edizione. Beh, è chiaro che questo è il momento un po' più frenetico, perché si corre come dei matti, ma è anche il momento insomma che cui cresce l'entusiasmo, perché non vediamo l'ora che arrivi il 4 luglio, in cui iniziamo questa nuova edizione di Arti Vive Festival. Anche quest'anno la casa base, diciamo, è Soliera di Arti Vive. Siamo ormai insomma, non alle prime edizioni, avete già una storia alle spalle. Come è cambiata Arti Vive nel corso del tempo e quest'anno come è organizzata, in che luoghi potremo trovarvi? Ma Arti Vive è nata, questa siamo alla 16ª edizione, è nata 16 anni fa come un più piccolo rispetto ad oggi festival organizzato dalle associazioni di Soliera, perché Soliera è la casa di Arti Vive. Poi negli anni si è consolidato e ha ottenuto sempre più riscontro, fino ad avere insomma una buona rilevanza anche oltre al regionale, e quindi grazie anche a finanziamenti in primis dell'amministrazione comunale, della regione Emilia Romagna, è cresciuto e si è consolidato. Quest'anno la novità è che usciamo dalla nostra casa, che è Soliera, per una prima esperienza sul capoluogo di provincia, su Modena. Quindi l'anteprima del festival, la prima giornata sarà il martedì 4 luglio a Modena, e oltretutto in una location bellissima, perché ai Giardini Ducali, che è un parco meraviglioso in pieno centro storico a Modena. E con una band anche molto interessante, perché gli Shame, giusto, sì, saranno quelli che apriranno le porte di questa edizione. Assolutamente sì, siamo stati fortunati a riuscire a incastrare e a programmare questa data, perché quest'estate faranno solamente due date estive in Italia, e non è una band giovanissima che ha battuto poco l'Italia ad oggi, però è molto molto molto chiacchierata, con anche soprattutto l'ultimo album che non vediamo l'ora di vedere dal vivo il 4 luglio. Guarda, ti confermo, io li ho visti in Italia a Alto Days qualche anno fa, esatto. E sono veramente una band spettacolare, quindi per chi non li conosce vi invitiamo insomma ad ascoltarli e sicuramente a approfittare di questa data, perché è appunto una delle poche in Italia, tra l'altro a un prezzo accessibilissimo. Una delle domande che ti volevo fare dopo, ma te la faccio ora perché mi sembra il momento giusto: avete sempre degli eventi o a ingresso gratuito o a dei prezzi veramente accessibili per tutti? È una politica che vi siete dati per avvicinare il pubblico al mondo musicale? Come riuscite insomma anche a fare questa cosa in un momento in cui in realtà molto spesso i prezzi, per poter andare incontro alle esigenze dell'organizzazione, tendono a lievitare piuttosto che a essere contenuti? Questo è vero, sta aumentando un po' come il costo della vita in generale, tutto, tantissimo, anche nel mondo dell'organizzazione dello spettacolo dal vivo. La politica che ci ha sempre contraddistinto è questa, cioè fortunatamente possiamo contare su delle risorse pubbliche tra l'amministrazione e la regione, e quindi è anche sia un atto anche di responsabilità provare a educare da un lato con prezzi il più popolari possibili, e dall'altro anche invogliare le persone per cercare un ampliamento anche di pubblico attraverso tanti spettacoli teatrali e concerti ad ingresso gratuito. Perché insomma la peculiarità un po' di Arti Vive è quella, cioè riuscire a portare gente a Soliera, perché Soliera è anche piuttosto scomodo purtroppo per arrivarci, ma ci si arriva, siamo molto molto attrezzati, ci siamo molto attrezzati negli anni, ma vogliamo portare pubblico a Soliera a vedere cose proposte magari internazionali, conosciute, ma anche instillare quella curiosità e venire a scoprire tantissime proposte nuove, emergenti, magari sconosciute, ma che sappiamo benissimo che possono stimolare davvero il pubblico, cioè portarli, accompagnarli verso una scoperta. Quindi anche su questo un po' il tema della gratuità di tanti spettacoli. Infatti nel tempo e nelle varie programmazioni abbiamo visto che avete sempre portato degli artisti molto ricercati, di nicchia tra virgolette, e però sempre di qualità altissima. Non c'è mai stato un concerto con un artista che non fosse l'eccellenza in un qualche modo nel suo campo. Ti chiederei come avviene la scelta degli artisti da portare ad Arti Vive Festival, negli spazi di Arti Vive Festival. Guarda, la cosa molto di cui andiamo molto orgogliosi è che abbiamo un gruppo, chiamiamo il gruppo di interesse, sono tantissimi volontari, ragazzi più o meno giovani soleresi, appassionati di musica, di teatro, e raccogliamo anche da loro tantissime proposte. Poi il nostro ruolo è quello di sintetizzare, e riusciamo anche attraverso ascolti, essendo in tanti diversi, quindi ascoltiamo, siamo appassionati anche di generi diversi, ma andare a cercare in ogni genere insomma qualcosa di meno battuto, ma che vale assolutamente la pena conoscere. Perfetto, allora visto che prima abbiamo citato gli Shame, direi che adesso ce li ascoltiamo, così se qualcuno aveva idea di ascoltarli, noi in realtà ci mettiamo già avanti coi lavori, poi torniamo da te per raccontare un po' questa edizione nello specifico di Arti Vive. Dicevamo questa edizione di Arti Vive perché adesso abbiamo chiacchierato un po' sui massimi sistemi, un po', no? su qual è l'identità di Arti Vive, ma non abbiamo detto quando, come arrivare e soprattutto quali saranno un po' gli artisti che potremo trovare a questa edizione di Arti Vive. Allora, apriamo, come dicevo prima, il 4 luglio a Modena con il concerto degli Shame, ma in apertura avremo, in una situazione molto carina, un po' più intima, Aaron King, che è un cantautore modenese, in realtà lui è perugino ma vive a Modena, e prima sul palco principale, prima degli Shame, Corobu, che è un trio fortissimo di Stanza Bologna, e musicisti che vengono da tantissime altre esperienze musicali, e l'anno scorso hanno pubblicato il loro primo album per Locomotive Records, assolutamente da non perdere. Ci sembrava l'occasione giusta anche questa per far scoprire una nuova proposta che vale davvero la pena conoscere. Sì, poi infatti li abbiamo anche già passati e intervistati e sono stati davvero un'ottima scoperta, quindi siamo in linea con gli ascolti. Poi ci spostiamo il 5 a Soliera, dove ci sarà, insomma, iniziamo ad avvicinarci al clou del festival, e il 5 ci sarà solamente programmazione teatrale, mercoledì sera, con un bellissimo spettacolo dancing di Nove Teatro, una produzione di Novellara in provincia di Reggio Emilia. E poi dal giovedì a Soliera parte veramente il core del festival. Ogni giorno praticamente il festival è organizzato, ci sono sempre tre palchi che funzionano in centro storico. Il centro di Soliera è piccolino, ma riusciamo a incastrare molto bene tre palchi: uno che propone teatro, il palco principale invece di fronte al castello per i concerti più grandi, e un palco invece più piccolo all'interno del castello per le esibizioni più intime e acustiche. Il giovedì si chiuderà la serata con il concerto gratuito dei Notwist, che tanti anni che cerchiamo di portarli a Soliera, ma per incastri di tour è sempre stato difficile, quest'anno finalmente ci siamo riusciti. E il venerdì invece, venerdì e sabato, oltre ai tre palchi in centro storico, dalla mezzanotte ci spostiamo invece a pochi passi dal centro, a 10 minuti a piedi dal centro storico, al Circolo Arci di Oud, dove si tiene il dopo festival. E anche qui da mezzanotte, ogni sera proponiamo un altro concerto. Il venerdì per esempio ci sarà Live Cat, che è un'artista tedesca molto molto interessante, che spazia tra ballate a pezzi più pop elettronici, assolutamente da non perdere. E il sabato sera al dopo festival invece ci saranno i Big Mountain County, questa band romana, Psyche, molto in linea con la programmazione della giornata in centro, perché il sabato sera invece avremo una band che non ha bisogno di presentazioni, che sono The Brian Johnston Massacre. Beh, insomma, 5 giorni veramente molto intensi, devo dire, qua per questa edizione di Arti Vive. Perfetto, io ti chiederei invece le informazioni relative a dove acquistare i biglietti e anche per gli eventi a ingresso gratuito, se eventualmente è necessaria la prenotazione o meno, e anche se ci dai qualche indicazione su come arrivare, perché ci dicevi prima, insomma, non è proprio comodissimo forse arrivare coi mezzi, ma un modo c'è, vi siete organizzati, quindi dai, se ti va di darci queste informazioni. Guarda, allora, tutte le informazioni le trovate sul nostro sito artivivefestival.it, troverete il programma nel dettaglio, che in una telefonata è difficile riassumere tutto perché parliamo di circa 25-27 appuntamenti tra spettacoli e concerti in soli 5 giorni, quindi sul sito ci sono tutte le informazioni dettagliate. Per chi viene da fuori, Soliera, dicevo prima, è scomoda semplicemente perché non è su una strada principale, ma è esattamente a metà strada tra Carpi e Modena, quindi basta seguire le indicazioni, ma sul sito trovate anche tutte le indicazioni e gli orari per i mezzi pubblici, gli autobus per arrivare, e soprattutto perché tante persone che vengono da fuori si fermano giustamente a dormire, sono indicate tutte gli alloggi, hotel, bed and breakfast, che ce n'è veramente tanti, comodissimi al centro storico per passarsi davvero, come dico io, prendersi le ferie e farsi una vacanza alternativa Soliera di 4-5 giorni. Beh, allora vi siete davvero organizzati benissimo per farci rimanere a Soliera, è impossibile non rimanere. Esatto, su invece gli spettacoli a pagamento, che in realtà sono solamente 2 concerti, che sono Shame e le relative aperture a Modena il 4 luglio e The Brian Johnston Massacre l'8 luglio a Soliera, trovate tutte le informazioni anche queste sul sito. I canali di prevendita sono Viva Ticket e per quanto riguarda il concerto dei Shame anche Ticketmaster. Perfetto, per quelli a ingresso gratuito non c'è bisogno di prenotazione, quindi? No, le capienze sono abbondanti e poi il